Il narratore audiolibri vi ha presentato Alla ricerca del tempo perduto, dalla parte di Swan, parte terza, nome di paesi, il nome, di Marcel Proust. Lettura di Alberto Rossatti. Una produzione Il narratore audiolibri, Zovencedo, Italia, 2021. Traduzione di Denise Dubois e Alberto Rossatti. Illustrazione di copertina di Marlene McLaughlin. Swan's Way, Watercolor, collezione privata, San Francisco, California. Copyright audio, Il narratore audiolibri, Zovencedo, 2021. Salvo autorizzazione, sono vietati la duplicazione e l'utilizzo di quest'opera per la pubblica esecuzione, la radiodiffusione e web radio. Ogni trasgressione sarà perseguita ai termini di legge. Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.